nostro mattino. È un whisky fischio senza maschio. No! È un teschio maschio senza fischio. No! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio. Nemmeno. Va bene. Gigi Proietti, signori, Gigi Proietti. Oggi avrebbe compiuto 80 anni, forse ha fatto appena in tempo a compierli, Se n'è andato per, come avete sentito, un problema di cuore. L'abbiamo ricordato con questo passaggio di febbre da cavallo, ma ce ne sarebbero un'infinità da far sentire. Tutto il suo teatro di A me gli occhi, please. Il maresciallo Rocca, tanto amato da molti. Stato anche attore serio, non solamente comico. 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, messaggi su WhatsApp 800-24-00-24. In questo lunedì 2 novembre, nel quale più avanti nel corso della trasmissione, questa è la terza parte di 24 mattino, come sapete, torneremo a parlare di pandemia, lo faremo con la professoressa Antonella Viola, che è già stata nostra ospite, e poi parleremo un po' con Carlo Calenda, candidato alle elezioni a Roma, come sindaco, autocandidato come sindaco a Roma. Vedremo come andranno le cose, i rapporti con il Partito Democratico. Iniziamo però, come sempre, dal punto di giornata con il nostro Paolo Mieli. Paolo, eccoci qua. Eccomi, buongiorno. Gigi Proietti, Com'è? Gigi Proietti, non si possono dire che parole banali in questa cosa. Per me, tra l'altro, era anche un mio amico personale, insomma, è un dolore. Però non va annoverato fra le vittime da Covid. Sarebbe morto ugualmente. Poi questo morire nel giorno del compleanno è una delle cose. Comunque sui giornali troverete già molti articoli, perché si era sentito molto molto male ieri pomeriggio, e quindi i giornali, soprattutto quelli romani, il Messaggero, sono stati stampati che non era ancora morto, sì, ma che l'allarme era grande. Sì. Paolo, allora abbiamo un problema audio che adesso vediamo un attimo di risolvere con te. Non sappiamo da cosa dipenda. Con me, problema audio? Ecco, no, adesso impossibile. Adesso pare sistemato. No, invece no, non è sistemato. Non è sistemato. Riusciamo a sentire molto male. Non sappiamo esattamente da cosa dipenda, se da un rumore di fondo che hai là, oppure evidentemente dal collegamento che non sta girando nel modo giusto. Vediamo di risolverlo presto. Un ascoltatore ci ricorda, a proposito di Gigi Proietti, anche l'armata Brancaleone sul fronte del cinema. Sì, certamente, altro film fondamentale. Adesso chiederemo anche a Paolo Mieli, appena recuperiamo l'audio, se accetterebbe quelli che qualcuno definisce gli arresti domiciliari, che è il grande tema di oggi. Poi ne tornerà a parlare anche il nostro Alessandro Milan. Comunque una domanda ad Antonella Viola, immunologa e professoressa di patologia all'Università di Padova, che sarà ospite con noi, la faremo su questa idea che sta circolando di isolare gli over 70, cioè quel tweet di Giovanni Toti, del presidente della Regione Liguria, che sta facendo molto discutere. E chissà se il nostro Paolo Mieli si farebbe chiudere in casa. Paolo, ti faresti chiudere in casa? Subito, io rimango chiuso in casa, anche perché gran parte del mio lavoro io lo faccio da casa, dal mio studio, e quindi non ho problemi. Oggi ho trovato appunto sui giornali c'è una irritazione generale contro Giovanni Toti, ne hai già parlato, per quelle tweet, questa mania che hanno, loro pensano di essere moderni nel fare i tweet a tutto spiano, anzi affidare dei collaboratori che fanno delle figure terribili. In questo caso una misura che in qualche modo verrà presa dal governo se l'è intestata la destra grazie a un malaccorto tweet di Giovanni Toti. Faride. Comunque c'è un'insurrezione sul giornale, avevi visto Piero Angela, Roberta Sorrosa, Giuseppe Derita, Vittorio Feltri ha fatto un titolo: vogliono inchiudere i vecchi nell'armadio, il cardinale Zuppi, insomma tutti. Niente, io ho trovato saggio un'intervista a una sociologa, Chiara Saraceno, che ha detto, ma sì, che ha più di 70 anni, ha detto è fisiologico che cerchino di dare indicazioni alle persone più anziane di stare più riparate. Del resto vorrei dirti che Grillo l'anno scorso, esattamente un anno fa, aveva chiesto addirittura fosse tolto il diritto di voto, vi ricordate? Ah, sì, il diritto di voto agli anziani, e che in Russia, informa il Corriere della Sera, a quelli che hanno più di 65 anni non gli vendono neanche più il biglietto della metropolitana, non so se l'informazione sia giusta, ma curioso. E pure in Argentina fu fatto un decreto per tenerli a casa, fatto dal sindaco di Buenos Aires, Rodriguez Larreta, ma un tribunale amministrativo disse che era incostituzionale. Però il tema si pone, è inutile fare gli indignati. Cioè, il tema non è tanto di chiudere a casa, ma di tenerli separati dai più giovani. Altre cose che ho visto sul virus è che contro i negazionisti, Michele Grillo, che è primario del Rianimazione a Rivoli, organizza dei tour come quelli che si organizzano a Auschwitz. L'ho vista questa cosa affascinante, un tour per negazionisti. Ti porto in ospedale, ti faccio vedere com'è la situazione. I veri malati. Sì. E poi delle cifre, delle curiosità. Uno, che hanno fatto una stima che nel gioco d'azzardo, con la reclusione a casa, si resiste l'82% ha smesso di giocare senza dolore. Quindi almeno il virus serve a un impatto positivo, ce l'ha. E serve forse anche eliminare i tradimenti, perché Anna Maria Bernardini De Pace, questa è la notizia, l'ho presa su Libero, ha scritto un libro, manuale di autodifesa per ragazze e ragazze, che dice che il tradimento è stata la vera vittima della prima ondata di Covid, perché le donne sono più abili a usare i mezzi, a usare tutto il tema di tecnologico, scoprono i tradimenti di partner. Una cliente mi ha detto che il marito aveva salvato il numero dell'amante sotto la voce pizzeria, ha fatto il conto delle pizze che erano arrivate a casa e che non erano giuste. E lei, siccome un avvocato matrimonialista famoso d'Italia, durissimo, una belva, dà come suggerimento di aspettare a raccogliere prove del tradimento quando si scopre la storia della pizzeria, soprattutto se si vuole la separazione per colpa. Allora, Radio 24 per il sociale, suggeriamo di attendere a raccogliere le prove del tradimento, perché serve qualcosa di più solido, come dice l'avvocato Anna Maria Bernardini. Guarda, di cose serie, e invece per la parte Covid non mi va di parlarne, perché si è verificato il tuo teorema, cioè che vengono date indicazioni una domenica, ma prima che possano essere verificate le palestre, le cose, c'è un nuovo DPCM che ne dà altre. Quindi finché non si arriva al lockdown totale, questo è un trucco geniale della politica, di dare indicazioni limitate. Adesso chiudiamo dalle 5 alle 6, poi tu la settimana dopo hai visto che è stata una cosa totalmente inutile, ci chiudiamo dalle 4:30 alle 5:15 e si naviga a vista. Pensa che in Slovacchia ieri in un giorno è stata testata, la Slovacchia ha molti meno abitanti dell'Italia, un decimo, è stata testata metà della popolazione, metà. Sì. 2,5 milioni di persone, non neanche in Italia vengono attestate in un giorno 2,5 milioni di persone. Qui c'è qualcosa di insufficiente e si fanno indicazioni a vanvera. Ogni settimana, non si aspettano le 2 settimane che si dovrebbero aspettare, ma ogni settimana si vara un DPCM, un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Voglio dire altre due cose. Una sulle elezioni americane, che molto probabilmente mercoledì mattina non riusciremo a dare i risultati, perché le cose si stanno mettendo in maniera così complicata che sicuramente ci saranno contestazioni, per cui il risultato netto, a meno che non ci si attenga ai sondaggi di una settimana fa che dicevano di una vittoria a valanga di Biden, e probabilmente non hanno già votato 93 milioni per corrispondenza, ma ancora non si capisce quanto tempo hanno per scrutare scrutinare, scusami, i voti per corrispondenza, e quindi sarà un, sì, un tra l'altro Paolo, con grande variabilità da stato a stato, perché l'altro giorno c'è stata la Corte Suprema ha dato l'autorizzazione alla North Carolina, sì, esatto, a contare i voti fino a 9 giorni dopo addirittura, cioè, quindi ce la spasseremo, se la batterà col Covid come tormentone tutte le mattine. Il fatto ieri più importante è stato l'endorsement che Fauci, grande virologo mondiale, comunque negli Stati Uniti, grande collaboratore di Trump, ma insofferente alle sciatterie di Trump, ha dato per Biden. Trump si è arrabbiato a morte, ma è ovvio. Altra notizia che qualche giornale, La Verità in particolare, se la prende con il Papa, perché che ha fatto il Papa, sì, ieri all'Angelus, al discorso, non ha citato il sacrestano decapitato a Nizza nella chiesa di Notre Dame, non c'era niente, ha parlato dei morti nel Nagorno-Karabakh, tema, sì, veramente forte, perché ce ne stanno tanti morti, ha parlato dei morti nel Nagorno-Karabakh, di una corsa che si fa, una corsa, una gara sportiva che si fa fra cattolici, nell'enciclica Fratelli Tutti ha usato parole molto tenere per il grande imam di Al-Azhar, Muhammad Al-Tayeb, presentato, sì, come fonte di ispirazione, ma soprattutto la cosa che ha colpito tutti, l'ha notato il Foglio, è che l'Osservatore Romano, il giorno dopo l'attentato, ha fatto il seguente titolo, virgolette, attacco a Nizza, morte in un luogo di amore e consolazione. Cioè non si diceva né chi era stato l'attentatore, né che c'era stata dei morti, fra cui una fedele decapitata e un sacrestano sgozzato, e neanche che era avvenuto in una chiesa. Ripeto, attacco a Nizza, morte in un luogo di amore e consolazione. Ora va bene non cercare rogne con gli islamici, sì, cercare di tendere la mano. Però dici, insomma, tu dici, forse c'è un limite. A proposito di consolazione, Paolo, io so che ti appassiona, perché sai, insomma, il rapporto del futuro Presidente della Repubblica con la Casa Reale Britannica è rilevante. Arriva la nuova stagione di The Crown, eh? Ah beh, quella nella reclusione casalinga che verrà con possibile, non dico probabile, possibile lockdown per 15 novembre, parte The Crown, i giornali sono pieni di anticipazioni, c'è Lady Diana che va nei locali del palazzo, circola con i pattini a rotelle, fanno sapere tutti di Lady Diana, è una serie, come è noto, sì, che racconta la storia dei regali inglesi, soprattutto, sì, da quando c'è la storia di Elisabetta II, e lo racconta molto molto bene, e quindi questo mette insieme spettacolo e virus. È il premio di consolazione Netflix per i giorni più tristi del virus, un po' come un'altra serie che si chiama Doc, che va su Rai 1, che è stata premiatissima dagli ascolti, sì, sia nella prima ondata del virus, sia nella seconda. Hanno registrato altre puntate. Così, stiamo a casa e c'è poco. Avete da fare, la televisione. Da fare. Per me The Crown, per te Doc. Con Argentero. Va bene. Ciao Paolo, domani. A domani. Grazie. Ciao. E 8:36 minuti e 30 secondi. Dio, che castroneria che ho detto, ho attribuito l'armata Brancaleone a Proietti, ovviamente era Vittorio Gassman. Ero convinto in realtà che Proietti avesse fatto una partecipazione là dentro, e mi sbagliavo. Quindi mi correggo subito. Buongiorno ad Antonella Viola, immunologa e professoressa di patologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Bentornata, professoressa Viola, piacere di averla con noi. Eccoci. Buongiorno a tutti. Buongiorno, cos'è questa storia dei settantenni? Lei li chiuderebbe in casa? Allora, guardi, questa cosa ha veramente poco senso, sia da un punto di vista scientifico sia pratico, perché Da un punto di vista scientifico risolverebbe relativamente i problemi, in quanto l'età media di ricoverati in questo momento è bassa e le persone che prendono d'assalto il pronto soccorso, che è il vero problema adesso, è comunque di ogni fascia d'età. Quindi risolverebbe relativamente il problema, forse un po' il problema delle terapie intensive e dei decessi, senza dubbio. Ma poi quando poi andremo a riaprire avremo un sacco di settantenni che sono potenzialmente esposti al virus se facciamo circolare liberamente il virus nelle fasce dai 70 in giù. Quindi è un qualcosa che comunque, cioè, o la teniamo così per un anno finché il virus non va via, però insomma, puoi tenere una popolazione, cioè, no, evidentemente no, non puoi tenerli chiusi in casa per un anno. Esatto. Professoressa Viola, ci vuole un lockdown completo del paese, secondo lei, adesso? Assolutamente. Allora, è vero che in questo momento la situazione sta precipitando un po' ovunque. Però no, qui bisognerebbe davvero intervenire in maniera molto mirata a seconda della situazione epidemiologica, a seconda della disponibilità di letti in terapia intensiva, degli ospedali e della capacità di fare tamponi. Servirebbe la sensazione è che stiamo un po' andando nel panico e un po' al rimorchio del virus invece che guidare noi, no? È un po', si sta perdendo il controllo e chiaramente qui c'è uno scontro Stato-Regioni, qui non c'entra la scienza, qui c'entra la politica. Ha senso un provvedimento a settimana? Assolutamente no, ed è la mia proposta è quella, a questo punto, visto che il lockdown serve per tenere bassa la curva dei contagi, facciamolo programmato. Programmiamo un lockdown, una settimana di lockdown al mese, insomma deciderà il CTS come, quando, però almeno che sia programmato, lo sappiamo da qui a giugno, ci organizziamo in quella settimana, ci compriamo dei libri e leggiamo, e, insomma ci dedichiamo alla cucina, alla lettura, all'arte, non lo so, però il resto delle tre settimane sappiamo che possiamo avere una vita più o meno regolare, sempre rispettando le regole naturalmente. Questa idea non è male, cioè per contenere il virus, per convivere col virus, come sì. Si dice, noi programmiamo e facciamo sì che una settimana al mese, cioè finché non arriva il vaccino, finché non arrivano delle cure che veramente risolvano, facciamo una settimana di lockdown al mese e così l'economia è salvaguardata in gran parte, no? E dall'altra parte è salvaguardata la parte dei ricoveri, la parte sanitaria, dice lei. Sì, perché prima di tutto ci si organizza e poi almeno gli esercenti, i commercianti, tutte le persone insomma che lavorano si possono organizzare, insomma sanno cosa devono affrontare, come possono investire, no, nei prossimi mesi. E poi non c'è l'ansia da DPCM che cambia ogni settimana, perché devo dire che in questo momento tutti noi stiamo vivendo una situazione veramente ansiogena, perché non sappiamo se cosa succederà stasera, cosa succederà domani. Ecco, questo sì. non fa bene a nessuno. Maria da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Prego. Io vorrei dire questo, che a volte sono realmente sorpresa dal fatto che mi sembra che non si pensi alle conseguenze di quello che si propone. Mi riferisco alla chiusura alle 18, che è stata una proposta. Sì. Allora, innanzitutto difficoltà obiettive per fare gli approvvigionamenti, con intasamenti durante gli altri orari. È una stagione disagiata, quindi file all'esterno con il freddo, per esempio, sì. No? La gente non esce presto come d'estate, io vado a fare la spesa alle 7:15 la mattina, capisce? In un altro supermercato sotto casa appena apre alle 8. Poi problemi e poi organizzare tutti diciamo così gli orari dipendenti dei supermercati. Problemi anche di ordine pubblico, nel momento in cui c'è un coprifuoco alle 18 di sera, chi rientra dal lavoro trova tutti i negozi chiusi, poca gente per strada, buio pesto, a quel punto, a mio parere, sorgono anche i problemi di ordine pubblico. Sì, però Maria la interrompo, perché il suo pensiero è chiaro, però su quel fronte teoricamente non dovrebbero esserci altre persone in giro, quindi il problema di sicurezza è automaticamente risolto in tutta teoria. Professore Saviola, questa è una discussione che abbiamo già fatto all'inizio della pandemia, all'inizio della prima ondata, ossia se chiudere i negozi prima, si fece una discussione, se ricorda, sull'apertura dei centri commerciali nel fine settimana. In realtà qualcuno dice no, guardate, dobbiamo estendere l'orario il più possibile per distribuire le persone il più possibile. Lei come la vede questa cosa? Sono assolutamente d'accordo, chiudere prima fa solamente accalcare le persone negli orari di apertura, quindi non risolve assolutamente nulla. Una misura come questa è punitiva per i cittadini, perché non poter uscire di casa per fare una passeggiata è una violazione in qualche modo della libertà, ma soprattutto non è efficace, perché non è sufficiente, perché se le persone che vogliono continuare a non rispettare le regole decidono di farlo, si incontreranno in casa alle 18 e andranno avanti a cenare, a festeggiare fino alle 22 di sera. Il lockdown funziona solo se è totale. Allora, se è totale, sì, che nessuno può mettere il naso fuori di casa, come è stato, no, nel periodo terribile, allora ha senso. Ma altrimenti dobbiamo trovare delle misure di convivenza col virus che ci permettano di bilanciare tra, sì, appunto, economia, vita normale e sanità. Una misura del genere, dal mio punto di vista, non risolve, perché le persone andranno tutte quante. In questi giorni a Padova, sì, gli aperitivi si facevano alle 4. Le dico solo questo, dalle 4 alle 18 c'erano gli aperitivi. Questo è anche, se mi permette, un po' di senso di responsabilità, no? Perché se ti mettono il blocco alle 18 è per un motivo specifico. Allora, sta raccogliendo sta facendo discutere molto, professoressa Viola, la sua proposta di una settimana di lockdown al mese. Ci spiega un po', ma veramente si riesce ad appiattire parzialmente la curva con una sola settimana di lockdown? Posto che non lo vediamo nella settimana successiva, ma in quella dopo ancora, evidentemente. Certo. Allora, in questo momento no, perché la situazione è fuori controllo, quindi in questo momento servono 2 settimane verosimilmente. Una volta ristabilito un minimo di equilibrio, servirebbe proprio a smaltire, no, in qualche modo la diffusione del contagio. È una proposta, se non basta una settimana, magari possono essere 10 giorni, però in qualche modo bisogna organizzare una specie di lockdown pulsati. Sono gli epidemiologi che devono fare i loro calcoli e dire no, piuttosto facciamo 2 settimane ogni 2 mesi. Ma l'importante, secondo me, è che a livello della popolazione si sappia, che noi sappiamo che cosa ci aspetta da qui a giugno, e evitare appunto questi decreti caotici, no, che si inseguono. No, noi facciamo un decreto, non abbiamo il tempo di vedere l'effetto delle misure di questo decreto, che già ne stiamo facendo un altro, e quindi che senso ha tutto questo? È un punto interessante, professoressa Viola. Io la ringrazio anche per oggi per essere stata con noi, averci dato il suo contributo. Antonella Viola, immunologa e professoressa di patologia alla Facoltà di Medicina dell'Università di Padova. Francesco da Napoli, buongiorno. Buongiorno a Radio 24. Allora, io intervenivo sulla questione Toti. Allora, diciamo che forse l'ha detta male, ma forse quello che intendeva dire: se uno non lavora, ovviamente può evitare di stare per strada, questo per evitare di fare stare, sì, più gente per strada. Però forse Toti ha dimenticato l'altra faccia della medaglia, che forse è quella più importante, cioè quello che fanno le persone anziane, cioè i nonni, che danno una mano a chi va a lavorare, perché molto spesso sono quelli che risolvono i problemi di tante zone in cui magari non ci sono particolari attenzioni per i bambini, c'è un problema con i nidi, con gli asili. Francesco, lei ha perfettamente ragione. Dall'altra parte le dico che questo è esattamente il momento nel quale i contatti tra i bambini, tra le persone più giovani e le persone più anziane, tutto sommato andrebbero evitati. Mi convince di più il ragionamento generale su chi sono i settantenni oggi. Ne abbiamo parlato fino all'altro giorno con Paolo Mieli, ci abbiamo anche scherzato sopra su tutta la vicenda e ce ne siamo occupati perché è una vicenda seria. Piercamillo Davigo è appena andato in pensione a 70 anni, e quindi a 70 anni molte persone sono ancora delle persone attive. Qualche ascoltatore ci scriveva stamattina: io a 70 anni, a 72 anni, 73 anni porto avanti l'azienda, quindi è una cosa complicata da gestire. Mi piacerebbe che questa discussione fosse un po' più intensa anche sul tema della scuola, lo ribadisco un'altra volta, e su come sono stati parzialmente segregati anche i ragazzi. È un grande tema questo. Carlo Calenda, buongiorno, bentornato. Buongiorno. Buongiorno. È la prima volta che la sentiamo da quando si è candidato a sindaco di Roma. Oggi, tra l'altro, è una giornata nella quale un pezzo del cuore di Roma se n'è andato, Gigi Proietti. Sì. Che dice? Sì, lo è. Stavo riguardando un pezzo che è meno conosciuto, cioè ovviamente era un grande attore di di cinema e di televisione, ma ha fatto soprattutto teatro, ha fatto un Cyrano de Bergerac bellissimo, di cui stavo riguardando il pezzo finale adesso. Io sono un patito di Cyrano, e insomma, grandissimo attore, molto versatile, nel senso che ha fatto cose molto diverse, anche noi lo conosciamo più per il lato comico, ma anche un bravissimo attore drammatico. Sì, assolutamente. Ascolti, Calenda, dunque, io non ho capito in che stato sono i suoi rapporti con il Partito Democratico su questa neanche storia io. Della candidatura a Roma. Non l'ha capito neanche lei. Beh, bene, ottimo. E guardi, cioè... non, adesso, battute a parte, non so, non, veramente non l'ho capito. Io sono candidato perché nessuno si vuole candidare. Credo che spaventi il fatto che Roma è una sfida amministrativa difficilissima, perché non funziona più niente, la capitale che è peggiorata di più tra tutte le capitali europee negli ultimi 5 anni, e non c'è un servizio che funziona come dovrebbe, tutto è in emergenza. E però non è che noi possiamo semplicemente fuggire dalle sfide pensando, come posso dire, tanto non si può amministrare Roma, un po' la cosa che sta emergendo. Questa è la ragione per cui mi sono candidato. Ho sempre detto che avrei appoggiato Sassoli, Gualtieri, Gentiloni e tutti i nomi che faceva il Partito Democratico, che però non ci sono, e quindi ho pensato che era un po' anche doveroso farlo. La risposta mi è parsa non entusiasta, se posso usare un eufemismo, che ne so, decideranno, a un certo punto decideranno se vogliono star con i 5 Stelle, se vogliono invece costruire una coalizione ampia. Questa è una cosa che veramente non è nelle mie mani, insomma. Sì, se fanno le primarie lei ci può partecipare, tra l'altro, da non più iscritto al PD, oppure no? Perché poi tutte primarie sono di coalizione, non è quello il punto, che parlare di primarie è ovviamente abbastanza surreale in questa situazione, no? La mia impressione è che serva al Partito Democratico semplicemente per prendere tempo e cercare di fare l'accordo con i 5 Stelle facendo ritirare la Raggi. In questo senso si sono espressi sia Orlando che Di Maio, ma va tutto bene ed è tutto comprensibile, eh? Io non, ognuno a casa sua fa le sue strategie, l'importante secondo me è dirlo, cioè essere chiari. Dopodiché io sto iniziando a lavorare su Roma, è un lavoro molto lungo perché bisogna andare dentro i problemi, capirli e fare delle proposte. Inizierò già questa settimana su tutta la parte di ciclo dei rifiuti, sto, diciamo, nei limiti di quello che è possibile per il Covid, girando già e incontrando le associazioni, ovviamente in modalità molto sicura, e poi a un certo punto faranno pace con loro stessi e decideranno. Ascolti, Calenda, sul fronte operativo, poi chiaramente lei sta raccogliendo le idee, no? Però mi stavo anche chiedendo, Roma è una città di enormi problemi e un pezzo di questo enorme problema è la sua macchina pubblica, notoriamente poco funzionante e per certi versi pletorica. Immaginavo, prendiamo un Calenda che arriva e si trova da gestire l'ATAC. Cosa farebbe lei in ATAC oggi, che è l'azienda del trasporto pubblico romano? L'ATAC in questo momento, quello che farei è intanto, va bene, proseguire il lavoro di svecchiamento del parco circolante, perché il problema dei mezzi che si fermano e vanno a fuoco è il fatto che hanno una enorme vetustità. Il parco circolante ATAC ha più di 8 anni ed è la parte, diciamo, semplice. Lei pensi che i tram hanno più di 33 anni di media. E dall'altro lato quello che bisogna fare è un discorso molto serio con i lavoratori di ATAC, nel senso che è un'azienda che deve essere ricapitalizzata per funzionare bene, e quindi bisogna investirci dei soldi. Bisogna vedere anche se c'è un interesse di Ferrovie dello Stato a prenderla e integrarla con tutte le intersezioni del ferro che passano per Roma, che possono molto alleviare la congestione del traffico. Però fatti chiari, quello che non può più essere è la costanza dei scioperi il venerdì con motivazioni. L'ultimo c'era di tutto dentro, c'era addirittura contro il riarmo. Ora che sì, venerdì me lo ricordo, ATAC me lo ricordo, faccia sciopero ne abbiamo contro parlato, il riarmo. Ne abbiamo parlato. Non era solo ATAC, in realtà era un nazionale, se non sbaglio, proclamato da qualche sindacato autonomo. Ma quello che si vuole, però secondo me lì c'è da fare un discorso di piano industriale, cioè uno ci mette le risorse. Adesso poi, diciamo, potrei stare qui a dirle quali sono le tratte che possono essere fatte funzionare più rapidamente aumentando le frequenze sul ferro, eccetera. Però il ragionamento di natura generale è che l'ATAC, diciamo, è un'azienda disfunzionale sia per mancanza di investimenti ma sia per gravissime carenze di gestione operativa. E le carenze di gestione operativa hanno anche a che fare con un problema di organizzazione del lavoro, quindi bisogna fare un accordo, come si fa nelle aziende che sono in queste condizioni, in cui si diciamo, si dà più investimenti contro una, diciamo, diversa ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro. Questo è probabilmente il caso più difficile, quello di ADAC, più difficile ancora dell'AMAG. Non gliel'ho chiesto a caso. Ascolti, Calenda, sul piano nazionale, dando per scontato che immagino non le piaccia come il governo sta gestendo la pandemia, mi dice tre cose che farebbe subito, che andrebbero fatte subito? Sì, la prima è ripulire il bilancio di tutte le robe che non hanno funzionato. Oggi ci sono circa 23-24 miliardi di euro stanziati ma non spesi, vanno immediatamente reindirizzati. Io ho dato alcuni suggerimenti dove devono essere reindirizzati. In primo luogo, da maggio abbiamo fatto un'analisi regione per dire cosa serviva per tenere le regioni aperte con la seconda ondata, non è stato fatto. Oggi abbiamo circa il 50% di quello che ci serve in termini di tamponi, terapie intensive, residenze Covid, medici di medicina generale, eccetera. Quello è un pezzo fondamentale. Anche guardando al futuro, per esempio finanziando le 9.000 borse di specializzazione che mancano per giovani medici, che sennò se ne andranno da un'altra parte. E dall'altro lato quello che farei è, mentre riuso questi soldi per fare cose più intelligenti, ti faccio un altro esempio di proposta che abbiamo fatto. Tutti questi fondi perduti o piccoli pezzettini di supporto alle imprese che molto spesso si sono persi potevano essere sostituiti, io lo dissi subito a Gualtieri, da un intervento che era restituire alle aziende che avevano perso più del 10% di fatturato tutti gli anticipi IRES e IRAP dell'anno scorso, che sono circa 20 miliardi. Se ci leva a quelle che non hanno perso sono circa 17-18 miliardi. Questo è il lavoro da fare, cioè guardare sempre quando fa un provvedimento se ha funzionato o non ha funzionato. Se non ha funzionato, non è che tu devi lasciare i soldi morti lì, ma li devi subito redistribuire, riorganizzare e spendere in modo più efficace. Questa è una cosa su cui abbiamo fatto 100.000 proposte al governo e francamente non capisco veramente questo fatto, perché non sta a ascoltare, come sulla cassa integrazione in deroga, sulle garanzie, cioè è una cosa che non mi spiego, ecco, perché chiedono di avere un'opposizione costruttiva, ma poi quando ce l'hanno non gliene frega niente. Calenda, un'ultima domanda, non abbiamo tempo per parlare di Whirlpool, è cosa che avrei voluto fare ma siamo veramente in chiusura, però molti ascoltatori ci stanno dicendo, aveva detto che non si sarebbe mai candidato a sindaco di Roma, perché lo fa? Ma io l'avevo detto che non mi ero mai candidato per la ragione che ho spiegato prima, perché sapevo e speravo ci fosse un candidato di centrosinistra forte e lo avrei appoggiato, ma il problema è che non c'è, e quindi la ragione per cui l'ho fatto, l'unica ragione per cui l'ho fatto, è che non c'è nessuno. Quindi Calenda, mi scusi, se arrivasse un candidato credibile, lei si ritirerebbe? Beh, adesso dipende quando arriva, no? Io l'ho detto spesso, prima di candidarmi, l'ho detto a Zingaretti, ho chiamato tutti i candidati che ci devono essere, Sassoli, dicendo ragazzi, se avete anche l'1% di possibilità di cambiare idea, io mi fermo, vi aspetto, non c'ho nessun problema, perché non è che chi fa il sindaco di Roma vince l'Enalotto, capito? Non è proprio precisamente questa la situazione. Io in Europa sono contento, ho appena fatto approvare il mio rapporto sulla politica industriale, sto lavorando con Azione, quindi diciamo, come posso dire, non è che uno fa un lavoro comodo, però il problema è che se non c'è nessuno che lo vuole fare, perché io ho beccato 20 editoriali che dicevano ma Calenda lei fa il fenomeno su come amministrare eccetera, però su Roma dice di no, a un certo punto dico vabbè, allora dico di sì, vediamo che succede, no? Grazie Carlo Calenda. Grazie mille. Grazie. Buona giornata. GR24, ci risentiamo domani mattina alle 6:30. Ciao.